Questa quella per me pari sono a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altre beltà. La costoro avvenenza è qual dono, di che il fato le infiora la vita. So di questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. La costanza tiranna del cuore detestiamo, quel morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non va a mormolo se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le strane e derido, anco d'arco di cent'occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà. Se qualche beltà.